Beppe, Gio Maria. Gio Maria, dormitoci. Quando ti lavi, buia. Quando ti lavi? E me. E a te, a canale 5. Quando ti lavi? E me. E a me. I want you. Quando ti lavi? Lu, quando ti lavi? Quando ti lavi? Attenzione, Battisio! Signore! Buonasera! Buonasera, ebbene! Cosa stai combinando? Nuda che è nuda! Sto rientro da mamma! Ah! E giro quella bestiola ieri, no? No! Sono andato a prendere la signora, è scudura dai nomi! Sto facendo una cosa al computer, poi si è bloccato e mi ha detto arrivederci! E avete mai? Sì, stavo facendo un piazzando un affare per fare quei cosi con la ricetrasmettente, invece si è bloccato, mi ha detto arrivederci. Evidentemente non ho via gara. Infatti, va, una strada di vibru. Va, tu ci riprovi, vai comanda Edno. Sì. Ma sa di... che non c'è più caso. Ehi, avvinna il depo, sì, signor, rubi da rugoso. È un buon coso sta zitto. Tanto non ci perdi niente. Ah, perde, non ci perdo nulla. Solo che lo voglia vedere come ti è, quale frequenza c'ha. Ah, beh. Ritenta la prossima! Che fatti? Mi dice ritenta la prossima, sarei più fortunato. Così è. Allora così dicono. Vabbè, alla prossima vuol dire e mettere le cose più in chiaro. Va. Lo devi fare una sagosa, va. Ma non sa faccia nessuno oggi, boh. Vuol dire che sono occupati. Ah, tutti in giro sono tutti in giro per vedere. Peggio Baedi. È signor Bacchisio, Non l'ho sentito, no. Se non entrava... sarà ancora in campagna, c'è ancora di manna, Ah, non penso. Sarà già alzato. Attento, signor Bacchisio. Lo chef è manco. Lo chef deve essere penribiato ancora. Deve darsi. Ci sentiamo dopo, fa 10 minuti, to. Son qua. Tanto sono le 8. Subito, meno 25. Cavali! Mito, sì! Che facendo, c'è? Uiuia, tu sei che te ne affutti. Uiuia, io sono il tracco. Uiuia. Sono in super relax. E cosa vai? Arrughi tu sì, Cos'è? La voce sei ingudito. Ho sempre raffreddato. Sono stanco, to. Io sono da risinci, dato. Se vuoi stare risinco, va. Ehi, catta, pago così poco. Me ne beso un ghizzo, ogni a manzano io, babbo, ciao. Ma non trovo di mano, Tutto non si può aver, no? Allora, come eri? Si è sentato per 10 minuti. Che sta blu? Ha detto che si è sentato. E blu? E cosa hai fatto? Niente oggi. No, stasera ero al computer, come sono rientrato a portare il cane. Sono messo al computer e stavo mettendo... ho messo il software per vedere che frequenza c'ha questo apparato. Abbiate, si è bloccato e mi ha detto arrivederci. Addirittura? Come mai? Dove sei andato in conflitto, dove sei andato? E me l'ha bloccato. Ma bloccato in che senso? Non capisco. Cos'è? Bloccato in che senso? Non capisco. Che sei che è andato in conflitto e me l'ha bloccato. Poi ho preso, sono andato a resettarlo e non chiudeva. Allora l'ho chiuso in un'altra maniera e l'ho chiuso del tutto. Ah, non so se si riavvia, boh, non so come si riavvia. E domani ci provo a vedere. Cosa c'è sotto che stavo operativo hai? Windows 7 con la memoria di 8 giga. Boh, strano. Ma l'hai resettato con il... No, ho messo il software, ho messo il coso proprio per vedere le frequenze. Come l'ho aperto si è bloccato. E addirittura. Vedrà se è andato in conflitto, che cosa è andato in conflitto e. Boh, non lo so cosa sia successo. Allora, giubilato. L'ho chiuso, a vedere se chiudeva e non me lo lasciava chiudere. Ho preso, ho staccato l'apparato, a vedere. Ho staccato, e non voleva chiudersi. Allora gli ho fatto l'altra chiusura, a vedere. Allora l'ho messo in coso e l'ho spento dell'altra maniera, l'ho spento. L'ho spento e poi mi chiamano mia moglie e ho chiuso tutto. Adesso domani mattina vedo cosa mi ha dato il conflitto. Vedi un po', ma è andato in crash, così. Chiamata a butti ha fatto per caso? No, e come ho messo ho visto le frequenze, da lì si è bloccato poi. E non sono riuscito andarlo avanti. Oh, se deve esserci qualche cosa in conflitto. Ehi, vabbè che ti arrangi comunque, dai. Signori, bongo vughero ma tessi. Che cazzo esagerato, che marca è? Cosa? La radio? Fa computer. HP, è dell'HP. Mamma mia. No, PC, sì, funzionano bene quelli sì, però sono molto difficoltosi. No, chissà che me l'ha già fatto io. Me l'ha già buttato tutto quanto, ma l'ha già buttato. E HP? Però dentro il coso ce l'ho messo io, il coso Windows 7. Ma che cos'era prima, un XP? Non lo so cosa era, se era più basso o se era come, però Windows 7 l'ho messo io, deve essere che era l'altro XP, deve essere che era. Ecco, capito. Però io l'ho aumentato a 8, l'ho aumentato di memoria. E dopo, vedi un po' cosa riesci a fare. Mia mamma me ne hanno portato uno. Sì. Me ne hanno portato uno e praticamente accende ma non si vede la schermata. Adesso vorrei capire cos'è. Possono essere tante cose, può essere la scheda video, può essere anche memoria RAM, insomma. Adesso controllo, vediamo un po'. Sì, come te l'hai da me. Come te l'hai da me che non accendeva però non si vedeva. Ho staccato la scheda video, l'ha giù tutta pulita, l'ha giù durata da piazza e si è acceso. Ma il portatile? No, il portatile no, fisso era. Ah, il portatile non la puoi staccare. Sì, del mio sì, dal portatile che ho io sì. Ma si può staccare la scheda video al tuo portatile? Strano. Non è di quelle che rimane fisso, no. A me si stacca la scheda, è piccolina ma si stacca. Ho capito, è estraibile. È estraibile, se la vuoi giambare a giambi. No, io ho visto che è piccolina come scheda. Sì, ho capito, e vabbè portatili purtroppo, lascia il tempo che trovano, vabbè. Io ho un Acer, grazie a Dio, ogni tanto lo smonto, mi pulisco la ventola, purtroppo si sporcano dentro. Ma ti posso dire che mi va benissimo. Adesso che è un po' lentino, devo comprare l'hard disk, quello, come si chiama, quello SSD. Adesso sai cosa faccio? non l'attacco sul grande il coso, l'attacco sul portatile, l'attacco quella radio lì. Voglio vedere, perché l'altra volta io l'ho messo nel portatile, funzionava bene, le avevo viste. Domani avrà attaccato su. Prova. Con quello conflitto non ne ha avuto. Non lo gioco. Perché come gli ho messo il sotto, deve essere che non lo regge quel sotto lì. C'è uno 7 per forza lo deve tenere, strano, Ah, ma da quando gliel'ho messo mi ha dato fastidio. Deve essere il coso è quello del 480 per il software 888 77 66, però mi dà del coso, conflitto mi fa, e deve essere adesso, ne lo disinstallo io domani e lo pongo nel portatile. Prova dopo, vedo un po'. Sicuramente su, ma no, un bruco domani, a vedere come ti si va giù tempo. Sì, già ci acciappa il tempo. Piano piano e vedi un po' come... Ma tu dovresti mettere, allora, se ce l'hai, Windows 7 è un premium, non quello... Perché sono pesanti, sono, capito come si sono operativi. Sì, quello premium c'ho. C'ho quello lì. Ho un premium. Seglia 64 bit. Forse quello che ci ho messo era l'altro. Forse ci vuole 64. 32 ci ha messo. Adesso si è installato quello lì, è per quello che si è bloccato allora. E io domani ne ho disinstallo e ci metto l'altro. Ma bisogna vedere anche... strano che si giochi. Cazzo, manco da sé che vi tira giù un buccio, chissù, l'hard disk. No, stava funzionando bene sino a poco fa. Quando vabbè, ma è incrociato Rucci, burro, Ma quando fa così, che si blocca, vuol dire che la disk non sta lavorando bene. Perché se non ti dà altri problemi, tipo, cosa ne so, schermate blu o schermate nere. Non me ne ha mai dato dei problemi. Ma proprio, io con quella radio lì mi ha dato i problemi. Hai capito? Col 77 mi ha dato problemi. Ma con l'altro, con il portatile non me ne ha mai dato problemi. Sai cos'è anche? Bisogna vedere se vabbè, metto che c'è 8 giga di RAM, già inizia a essere buono, ma è andato così con 8 giga di RAM. No, gliel'ho messo io. Ah, sempre dratta dove mi è sempre coso, non mi ha fatto mai nulla. Ma con chi fa radio che si è bloccato? No, ho capito. La tua RAM, ho capito. Aggiunga vite, non lo so. Purtroppo tante cose possono essere, tante e tante. Io domani, secondo come tiro, piglio e lo disinstallo. È vero. Li provo a installare quello 64, li provo a installare. Ma non è, c'è poca differenza, non è che qua. No, quando è giusta la cosa funziona benissimo. E la funzione in dive. Ma li ho messo, deve essere che li ho messo il 32, li ho messo io, adesso io li metto l'altro domani, lo provo. Se vedo io attacco lo portatile. Prova un po'. E anche bisogna vedere che processore monta, purtroppo i sistemi operativi, se non è un buon processore, non te lo regge. Anche se è RAM però, non ce la fa, capito? E su già, è da poca grassa che sei, su Maria, ragazzi, un tonno, Cosa c'è Biden? E chi vi ha cari zinco? Che Biden ero gozo io, il telegiornale sardo, di Rai 3. Ho visto il giornale di oggi che... come si chiama? Quel ragazzo che ha ucciso quel bambino, quel tipo di Alghero, no, dice che non è... Il figlio non è un assassino, cazzo, l'ha ammazzato. Ma io qua avrei dato la colpa anche al padre, perché tu la pistola così incustodita non la devi lasciare. Se devi la via a giottare dentro, vuol dire che ci abbiamo di in gallo guia la bisciura. Perché ce l'aveva la pistola, non ha giù compreso. Ah, ecco. Se tu, il padre, la pistola l'ha messa sotto al letto, vuol dire che il ragazzo l'ha vista dove l'ha messa. E l'ha presa, magari non sappiamo come maneggiarla. Sì, sicuramente. Io abbiamo fatto cosa a burlare babbo. Ma che dice tu, la pistola è lasciata incustodita, l'hai lasciata. E non la devi lasciare incustodita. Infatti. Sì, tante cose viso. Andemmo via, andemmo. Aspetta che c'è un signor Bacchisio. Attenzione, signor Bacchisio. Dormito, Sì, non è ancora arrivato, devi darci, Gio Maria è parito, Gio Maria. Vuol dire che è giunto agli enti. Sì, sicuramente. Vabbè. Pure no, dimmi. A Cagliari, congelando le tariffe dei rifiuti. Pure i nonghi. Che sto congelando? Sì, perché se fanno la raccolta in tutti i posti a Cagliari, le tariffe delle cose, del porta a porta, abbassano. Ah, ecco. Però se aumenti dagli enti ancora i nonghi, non so fa... Arrivi in monte e tutti i nonghi, ne arriva nel burro d'avvura e non vi so controlli. Dappertutto arrivi la mondezza. E no, che mi sono vicino a casa, ce li ho di fronte i cassonetti. Arrivano gli agenti da Sant'Orso, i bunti, i furgoni, tutto ne arrivene. Lo so, ma là perché non ne hanno inceneritori? Sassari, non ce n'è, no, discarica solo i bu. No, il continente, dico. Il continente gli avvisò. E no, chi è che no, bisogna essersi, ma a cosa bisogna essersi a Macomer? Però cosa ha crisi ne chiamiso troppi cosi? Cioè perché la portano qua? Non si sa più cosa sta succedendo fuori. Ma a me qua se non fanno cose come stanno facendo nei paesi. In alcuni paesi la mondezza la stanno bruciando e stanno ricavando il gas e l'elettricità. Ho capito. Presi, se non fate negozi non ti si abbasserà mai, sempre aumenta, devi. Certo. E se non mettono gente a controllare tutto quanto, fare molte contravvenzioni, la gente non si gaima. Ma adesso dicono che mettono, sai dove, lì, se tu vai per salire a Usini, lì nelle curve, se ti fermi, dove c'è il guardrail, tutto mondezza è lì. Infatti hanno fatto un come si chiama? Cioè quelli del paese sono andati lì a raccogliere tutta la mondezza, capito? Però hanno detto che mettono delle telecamere adesso. Sì, è la gente porcacciona. Io quando ci stavo salendo a Usini ci stavo andando e ho visto macchine, femminici e lampenni. Li suonavi e ti dimandavano anche due paesi, hai compreso? L'unica cosa è dargli le copre, il numero di targa e dargli ai vigili. Fanno bene a dirti così, così impara a farti i cavoli tuoi. Niente, mia signor Bacchi, Catta, allora delle zonche entri, signor Bacchi. Buonasera a te, buonasera Luca, sono arrivato 2 minuti fa. Non era per un salottino e basta. Capito, avevo altri giri da fare prima di rientrare. Andiamo via, andiamo. Buonasera signor Bacchi. Signor Bacchisio. Luca, ma solo voi due siete. Giovanni ci ha abbandonato. Giovanni è andato a mangiare, vuol dire, aveva fame. Marino, lo si è sentito? Ieri l'ho sentito, Bacchi, ieri l'ho sentito. Ieri, oggi no, ieri è domenica, sì. Ma forse stavo lavorando oggi e c'era dormito. No, stasera l'ho acceso alle 7:30. E allora ha dormito, sta a riposare. Ehi, andiamo bene. Anche lui è. Cosa c'è, Bacchi? Ho detto Graziano, dormito è. Si sarà ritirato? Non ho verbo. Ora di medicina e dunque ci sta ritirato già. Non esaccio, signor Bacchi. Come? Non esaccio. Non saccio nulla. E Luca lo sa però. Avanti tu. E cosa so? Che Graziano è dormito. Graziano è dormito, allora. Se non si prende l'insulina. Ho dormito o addormentato? Cosa ne dite voi? Secondo me è dormito. Impegni amorosi. Non penso, no. C'è fennesi gargarismi. Avvero. Ti raggio di tu io. Avvero. Eccoci qua. E noi? Eccoci qua. Buonasera, signor Figaro. Oi, signor Bacchisio, buonasera. Buonasera anche a Luca. Luca. Ehi, a Giomari. Oh, e qua ogni volta ti saluta. Mi qua gente. Ho salutato, ma tu mi sei mezzo dormito stasera, eh? Già sono un po' stanco, va, capito. Per forza, perché ha lavorato tutto tu, Cato, e lui è manovale senza fare niente, ti stava guardando, quindi è. E lui? Vedo un po'. Ecco perché ti sei stancato così tanto. Riprendi se la serbacchi. Così è. Adesso ho ripreso con il micro fra le mani, vi saluto, me ne faccio il QRT per causa medicina. È arrivata l'ora. Bene, ciao Tore, buonasera. Se mi hai ascoltato magari 5 minuti forse mi piacere scambiare 4 chiacchiere. Ciao Giovanni, buonasera, che saluto il correa familiare. A domani se tutto va bene. Ire con le patatine per Luca. Ciao Luca, buona serata, buon questo ancora. E Bacchisi, ascolta Finolino, vai in QRT. Vai, riprendi Luca. Ehi, ciao Bacchi, dai, salutoni. Buon corretti, buon tutto, buona la carica. A domani se Dio vuole. Entrate prima però, no, all'ultimo. Avanti Gio Mari. Infatti, almeno intanto per salutarci, va. Ha fatto bene. Ciao Bacchi. Ricambiato tutto anche qua in realtà, dai. Ci sentiamo domani se tutto va bene. Buon proseguimento, riprendito. Sì, ok, ci sentiamo Bacchi, a domani, ok. Poi Giomari, tanto è giunta ora di andare a mangiare. Ci sentiamo anche noi domani. Ciao Luca e ciao Giomaria. Alle prossime. D'accordo, tu. Saluto di casa, ci sentire domani. Se tutto fa brodo. Vai Luca. Ehi, ma il brodo stai chiudendo, dottore? Sì, me ne andiamo a mangiare, Mennando, che è quasi pronto. E anche qua, dai, Marina, sei andata in cucina a preparare, adesso me ne vado anch'io di là. Vabbè, dai, chiudo pure io. Ciao, Tore, ciao, Gio Maria, buona cena. A domani, ciao. D'accordo, ciao, Lu, anche a te, dai. Buona cena, saluto di casa, ci sentiamo, ciao. Buon proseguimento.